Buonasera, bentrovati sulle frequenze di Entropia Massima, sì, di Radio Onda Rossa, sì, questa è Entropia Massima, in effetti, 87.9. Questa sera vi facciamo una puntata sulla tecnologia e quest'anno, come sapete, abbiamo cambiato nome al ciclo sulla tecnologia, lo abbiamo chiamato estrattivismo dei dati. In realtà abbiamo sempre parlato di questi argomenti anche nelle passate stagioni, perché ci segue e non è una grande novità. La novità è che lo faremo in maniera più intensa, più sempre con critica politica, ma se vogliamo ancora più centrata sul tema specifico dei dati e della loro estrazione coatta da parte dei big tech. Quindi quest'anno, come sa chi ci segue, stiamo parlando molto di insostenibilità, parliamo di transizione ecologica, parliamo di transizione digitale. Per noi insostenibilità si declina in molti modi, in questo caso la declinazione è quella appunto dell'insostenibilità del sistema che è basato su questo strano potere che oggi proveremo un po' a definire, a spiegare, ci ragioneremo un pochino insieme e insomma vedremo un po' che cosa significa, no? Poi nello specifico per tutti e tutte noi questa irrefrenabile corsa estrattivistica che porta avanti le moderne economie del cosiddetto capitalismo della sorveglianza, che tante volte abbiamo citato in questa trasmissione. Quindi diciamo che una prima cosa che ci vogliamo chiedere è lo facciamo anche insieme a un'altra voce che ci raggiunge questa sera e che ci saluta. Sì, ora sì. No, ecco, forse ripeto. È un piacere continuare, ecco, continuiamo la nostra chiacchiera, continuiamo una chiacchiera che in realtà abbiamo iniziato un po' di tempo fa. Intanto, sì, buonasera di nuovo e a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, ed è tra l'altro un grande piacere essere qui a chiacchierare dietro a questi microfoni, anche se non fisicamente. Ma, sì, insomma, cioè, c'era venuta voglia di parlarne anche più di Entropia Massima e tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto ultimamente, no? Assolutamente sì, e quindi ci dicevamo un po' mentre preparavamo questa puntata, no? Se riusciamo un po' a fare un cambiamento anche di prospettiva, no? Questo voleva essere un po' il nostro intento, cioè di cercare di vedere le cose da una prospettiva forse più chiara che ci consente di capirle meglio, anche per dare un volto al nemico, insomma, in qualche modo, no? Perché non sia un nemico strano che magari definiamo in modo non preciso e quindi non riusciamo neanche a identificarlo e a lottarlo. Assolutamente, questo è chiaramente uno dei problemi, l'idea che le difficoltà tecnologiche che ci troviamo ad affrontare oggi siano insormontabili è chiaramente il precursore del status quo, nel senso mantiene le cose così come sono. E in effetti tutta questa chiacchiera che vorremmo fare oggi è parte esattamente dall'idea di cambiare prospettiva e, se vogliamo, dalla frustrazione che almeno io personalmente, ma sono una cosa che viene fuori spesso quando mi chiacchieriamo tra amici e tra colleghi, diciamo addetti ai lavori in particolare, è l'idea che spesso di giganti tecnologici, di grandi corporation, di strumenti tecnologici eccetera se ne parli sempre in maniere molto astratte o fin troppo specialistiche. E mi riferisco al fatto che spesso ci concentriamo, che so, sulla tossicità dei social network o sull'influenza che possono direttamente o indirettamente avere sulla vita degli individui o per esempio su cose tipo i termini di servizio che accettiamo pedissequamente di fronte a qualunque proposta di contratto. Sono tutti problemi reali, chiaramente, e che hanno anche, come dire, dei risvolti reali nelle aule di tribunale, nelle associazioni che tentano di arginare l'invasione della privacy, vi dicendo, ma qui risulta anche un po' in astratte. Ti devo interrompere un secondo perché ci segnalano un piccolo problema tecnico, un secondo. Uno, due, tre. E allora, scusateci, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici. Ci hanno chiamato appunto per dirci che non si sentiva, sebbene qui si sentisse perfettamente. In realtà, forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' se. Pronti, pronti, ce l'abbiamo fatta? Adesso? Pare di sì. Ci siamo, buonasera. Ottimo, meno male. Sì, perché no, mi dispiace. Tu che parli e dall'altra parte non c'è nessun altro che risponde, però poi tu ridici un'altra cosa. No, effettivamente c'era una conversazione, posso confermare sì, che non sì. sei del tutto impazzito. Sentito, purtroppo non si è sentita sulla febbre. Comunque sì, stavamo... Intanto buonasera di nuovo agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Onda Rossa. E, nulla... avevamo cominciato, praticamente questo è il proseguo di una nostra conversazione e il nostro punto di partenza era un po' questo discorso di provare a cambiare la prospettiva quando si parla di estrazione dei dati, di privacy e via dicendo, e cambiare la prospettiva fondamentalmente nel senso di chiarire qual è il problema principale da cui poi si dipanano tutti gli altri problemi di cui abbiamo manifestazioni quotidiane. E un po' il tentativo che volevamo fare era cambiare la prospettiva nel senso di concentrarci su questo problema principale e lasciare un attimo perdere le polemiche che ci si trascina dietro in altri ambiti. Vabbè, questo diciamo a livello molto generale, mi confermi che non ci sono problemi tecnici a questo punto, vero? Sì, a questo punto sì. Ottimo, ottimo. Non lo dovrei ripetere per la terza volta. No, figurati, non è quello. Magari la quarta diventa anche più chiaro quello che tentiamo di dire. No, però non so se, diciamo sì, forse privacy è una delle parole chiave, perché per fare un esempio molto concreto di cose di cui abbiamo parlato in questi giorni tra di noi, abbiamo fatto spesso riferimento ai termini di servizio, no? Che firmiamo, che accettiamo quando creiamo un account su un social network o compriamo un software o... accettiamo di utilizzare un certo tipo di servizio e via dicendo. Anche termini di servizio che chiaramente nessuno di noi su una pagina web. Anche, esattamente, i cookie che accettiamo, per esempio. E tutte queste sono esempi che tutti noi siamo prontissimi a confermare, che nessuno di noi ha mai letto una di questi contratti. Ci sono studi universitari che dimostrano praticamente l'impossibilità fisica di leggere tutti questi contratti. C'è uno studio di non mi ricordo quale università americana che diceva che per leggere tutti i termini di servizio di una media di contratti che ci troveremo davanti durante un anno ci servirebbero 78 ore lavorative e una discreta perdita peraltro di produttività. Questa è tutta una prospettiva chiaramente iperliberista americana, ma insomma rende l'idea che fisicamente non sarebbe neanche possibile leggersele tutte. E quindi in qualche modo sono un ottimo esempio di un contratto legale, di un oggetto legale che sta perdendo via via valore e rispetto al quale stiamo accettando delle convenzioni che non sono scritte da nessuna parte. Stiamo per esempio accettando quella che viene comunemente chiamata wrap up agreement culture, cioè il scrivere contratti che sono volutamente lunghi e complessi e che nessuno leggerà fino in fondo, perché in questo modo puoi celare determinati dettagli in questi contratti, e questa cosa la sappiamo benissimo, succede in maniera devastante a livello globale. È vero che i governi legiferando, per esempio noi in Europa siamo abbastanza tutelati da questo punto di vista, cioè nel senso, no? Lo siamo molto poco. La GDPR è una buona risposta. Siamo molto poco in assoluto, ma relativamente agli altri di più, e i governi provano a inserire all'interno di questo meccanismo così privo di senso che tu ci stai descrivendo, provano a inserirci degli elementi, degli appigli legali, ma anche delle comodità per l'utente che deve accettare questi termini, e vediamo che adesso sembra un pochino più facile, perché ci sono una serie di opzioni che possono essere inserite o disinserite. Ciò nonostante, però, continua perfettamente il meccanismo così come tu l'hai descritto, anche con queste facilitazioni. Assolutamente, ma anche perché è molto difficile per un qualsiasi governo. Allora, innanzitutto parliamo spesso di servizi che sono sovranazionali, quindi c'è già un problema di quale Stato, quale entità sovranazionale potrebbe applicare un'eventuale regolamentazione, ma poi sono anche estremamente difficili da seguire, nel senso per il tempo che uno Stato produce un decreto legge Google ha già fatto 77 passi avanti. E in più ci sono almeno un altro paio di comportamenti molto preoccupanti da questo punto di vista. Uno, il fatto che accettiamo che questi soggetti creino, facciano aggiornamenti delle loro policy in modo unilaterale, comunicandoci con grafiche molto piacevoli che lo stanno facendo per noi, ma fondamentalmente adattando i loro contratti come pare a loro e senza che noi leggiamo mai una volta quali sono le differenze, gli aggiornamenti e le novità. L'altra, l'ultima, e poi ti ricedo un attimo la parola per non attaccare un pippone troppo lungo, ma no, l'ultima sono i cosiddetti errori. Immagino. Oggi perlomeno siamo in due, quindi un po' ci possiamo alternare con i pipponi. L'ultima sono i cosiddetti errori, no? Quando succede qualche episodio eclatante di violazione della privacy o di condivisione dei dati che ha generato qualcosa di magari buffo, no? Non necessariamente grave, ma buffo. Facebook, Google, i soggetti che normalmente controllano una grande vastità dei nostri dati se ne escono con grandi scuse, si spargono il capo di cenere, ci spiegano quanto sono tristi di aver fatto questo errore e ci spiegano che stanno già facendo aggiornamenti al loro codice per evitare questo tipo di errori. Ma di fatto stanno soltanto arginando quello che i governi provano a fare. Lo vedremo di nuovo dopo, perché questo è un concetto che tornerà, ma fa parte del ciclo vero e proprio di estrazione dei dati, e nel senso di un ciclo produttivo vero e proprio. È un business che vive di questo e non vive dei servizi che ci sta offrendo, fondamentalmente. Ecco, sì, quello che si chiama il ciclo dell'esproprio, no? Come... Esattamente. Shoshana Zuboff l'abbiamo citata varie volte in questa trasmissione, quindi non è una novità per chi ci ascolta, ed è lei che ha introdotto questa definizione, giusto? Il ciclo dell'esproprio in sé è qualcosa che esiste in economia, è stato studiato in economia precedentemente, lei lo cita abbondantemente perché in questo caso è un perfetto strumento per capire di cosa stiamo parlando. E qual è l'oggetto di questo esproprio, allora, se vogliamo? Il nostro comportamento. Detto in una parola sola, il nostro comportamento, nel senso che l'accumulo di dati che noi possiamo raccogliere sul comportamento delle persone, non nel dettaglio, non è che questi soggetti siano così tanto particolarmente interessati a me personalmente o a te personalmente o a qualcuno in particolare, ma anzi gli interessano le sfumature, le differenze, le variazioni, perché in questo modo si possono fare previsioni. Se puoi fare previsioni, puoi vendere meglio un prodotto e puoi ottenere altri comportamenti. Vogliamo fare un esempio che possa... Una piccola storia che spiega il ciclo dell'esproprio. Google Street. Parliamo sempre degli stessi soggetti, è chiaro che questa cosa è un po' ridondante, però parliamo di un prodotto specifico che è Google Street, Street View per la precisione, a cui ci siamo abituati tutti e che tutti più o meno utilizziamo, abbiamo utilizzato e utilizzeremo, presumibilmente, ma che ha una storia molto interessante perché è un prodotto attraverso cui Google ha fondamentalmente e primariamente fatto estrazione di dati. E tentando di sintetizzare una storia che è estremamente lunga, dobbiamo immaginare che Google ce l'ha sempre presentato come un prodotto che ovviamente ci dava accesso a uno strumento utile, poter vedere una strada prima di arrivarci, una casa, un'area, un quartiere, se stiamo cercando casa, qualunque cosa vi passi della testa, anche semplicemente girare per il mondo con Street View. E ovviamente questo è un servizio interessante, è tecnologicamente intrigante, è una sfida che informaticamente è stata vinta perché c'è un prodotto che funziona da Dio sotto mille aspetti. Ma ciò che dietro le quinte stava succedendo non era nemmeno solo legato alla privacy nostra che venivamo inquadrati da queste telecamere, ma molto di più di questo. Ora, quando Google Street è uscito, tutti ci ricordiamo varie cause, ce ne sono almeno 15, tra le 15 e una ventina di regolamentazioni diverse in giro per il mondo, prevalentemente quasi solo con paesi, diciamo, occidentali o di area occidentale, intorno alla privacy. In Svizzera e in Austria, se non sbaglio, Google Street non può riprendere al di sotto di una certa altezza perché le case hanno finestre aperte, quindi inquadrerebbe dentro le case. In alcuni paesi europei puoi ottenere più velocemente che in altri l'eliminazione dei tuoi dati di profilazione da Google. Ci sono tutta una serie di varianti di questo tipo di lotte legali che i governi hanno fatto con Google per limitare l'invasione della privacy. Ma ciò che nel frattempo stava succedendo e ciò che poi è emerso in varie cause legali negli Stati Uniti è che con queste macchinine che giravano il mondo e a volte monopattini e a volte biciclette e a volte molto altro, stavano anche facendo l'analisi di tutte le reti wireless pubbliche e private che incrociavano lungo la strada. Un dato che quando è stato... Hai detto World Driving, giusto? Esattamente. Cioè un qualcosa che per chi non è addetto ai lavori è innanzitutto un'estrema e illegalissima violazione della privacy di qualunque cittadino. Secondo poi è uno strumento attraverso cui raccogli dati, magari dati rozzi, magari dati criptati, ma ne raccogli una quantità tale che poi puoi farci molte cose, puoi ottenere, puoi diciamo determinare molte informazioni a partire da questi dati. E in ogni caso è un'estrazione non informata, nessuno ci ha mai detto che Google stava facendo anche questo. Una vera e propria Google violazione, è un reato in piena regola. Un reato che Google negli Stati Uniti ha negato per almeno 4-5 anni, ha annacquato sostenendo che fosse stato l'errore di un ingegnere interno, per poi scoprire che questo ingegnere interno, sì, forse aveva commesso un errore, ma era il loro esperto migliore in assoluto su web driving e sulla raccolta di informazioni sulle wifi, e quindi, come dire, ti viene il sospetto che ci stiano un po' prendendo in giro, no? Fondamentalmente. Esattamente. Quindi chiudiamo questa piccola storia per dire che Google Street è un ottimo esempio di come il ciclo esproprio in realtà ci confonda le acque e ci faccia concentrare su battaglie perfettamente importanti, non secondarie, ma purtroppo secondarie rispetto al problema principale, che è la raccolta e l'estrazione dei dati per la profilazione e per la vendita di questi dati. Giusto per citarlo, il ciclo esproprio ha 4 fasi. Normalmente si parla di incursione, assuefazione, adattamento e redirezione, e secondo me sono anche abbastanza chiare. L'incursione è la fase in cui ti vai a prendere qualcosa che nessuno sta prendendo e che nessuno reclama e che sta lì a disposizione e te lo prendi solo perché fai violenza sugli altri e perché hai la capacità di farlo. Nel nostro esempio Google aveva la capacità di organizzare un'analisi del wireless pubblico così vasta, ha creato un prodotto e ci ha agganciato questa analisi perché era in grado di farlo e ha fatto un'incursione illegale, ripeto, a livello di qualunque legislazione nazionale prendiamo in esame, e però l'ha fatto perché nessuno era in grado di fermarlo in quel momento. Il resto del ciclo parla da sé, passiamo attraverso la assuefazione, ci abituiamo al fatto che esista questo prodotto, che questo prodotto implichi una invasione della nostra privacy, ci abituiamo a un'ulteriore erosione della nostra privacy. Inesorabile. La fase successiva? Inesorabile. Dal nostro punto di vista di utenti sembra inesorabile, ovviamente, no? E ovviamente Google è molto interessato a farcelo percepire come inesorabile. La fase di adattamento non ha a che vedere con noi, ma in realtà è il soggetto, in questo caso Google, che si adatta alle difficoltà che trova lungo la strada. Nel ciclo di esproprio ovviamente arriva una fase in cui incontriamo della resistenza, noi ci stiamo fregando le risorse di un territorio, quel territorio a un certo punto reagisce e l'adattamento è il trovare il modo di continuare a sfruttare quel territorio, un po' come facciamo col neocolonialismo in giro per il mondo, facendo finta che però lo stiamo aiutando in realtà o stiamo portando aiuto e democrazia. Infine la redirezione è chiaramente il farti non capire mai cosa sta succedendo dietro le quinte e continuare a spostare l'attenzione verso altri problemi e verso altri soggetti. Sotto questa voce potete metterci tutti gli aggiornamenti di policy e di contratto che vi arrivano e che non leggerete mai e che stanno semplicemente raffinando la capacità di questo soggetto di estrarre dati legalmente o illegalmente da voi. Bene, direi che ce n'è abbastanza per prenderci una piccola pausa. Ci ascoltiamo un brano dei Chumbawamba Adebayo che in qualche modo c'entra con quello che stiamo dicendo. I'm a loner, alone with neuroses and hate. Anger is a permanent character trait. My letter bombs are primed and they're ready to send. Would you like to add me as a friend? I'm a wound up whiner with a fetish for gold. guns. I'm almost 50 and I live with my mum. I hope my nude picture doesn't offend. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she never had me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? I'm a recovering alcoholic. I rarely leave my room. Peeping through the curtains in my dog costume. The voices in my head, oh, they'll get me in the end. Would you like to add me as a friend? I'd really like to mail you the picture that I drew. It's Kylie's body, but the head is you. I've asked you 50 times before, I'm asking you again. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she never had me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? E allora, don't you want to add me as a friend? Non mi vuoi aggiungere come amico? Si allude evidentemente all'aggiunta sui social network di un'amicizia. Siamo dentro Via Massima, stiamo parlando di dati, e quindi facciamo un altro passo avanti verso questa esplorazione. Abbiamo un pochino spiegato nella prima parte il ciclo dell'esproprio. Forse potremmo provare adesso a chiederci, dopo l'esproprio, cosa avviene? Cioè, come avviene la monetizzazione di tutto questo? Guarda, sono arrivato lì. Mi senti? Sì, sì, sì, sì, ti sentiamo. Ah, okay. c'è stato un problema. Mi sono perso un pezzettino. Ah, sì, sì, sì. Stavamo dicendo appunto che rientriamo in diretta per vedere un po' come poi si monetizza questo diciamo furto, no? Questo esproprio che viene fatto ai nostri danni, come poi viene monetizzato. Quindi cerchiamo di capire qual è poi il senso capitalistico. Quali sono degli esempi? Assolutamente sì. E permettimi, io insisterei proprio su questa parola che è estrazione, perché secondo me ci dà l'idea, ci dà l'immagine di che cosa stiamo parlando. Perché, di nuovo, abbiamo sempre la sensazione che il problema sia la nostra privacy, l'invasione della nostra privacy, e indubbiamente lo è, quello è parte del problema. Ma poi a livello generale, la monetizzazione che questi fanno deriva dall'estrazione dei dati, e quindi dalla estrazione di informazioni su ciò che facciamo, ciò che ci interessa e via dicendo. Alcuni degli esempi di cui chiaramente possiamo parlare sono noti a tutti, ma insomma, già a cominciare dagli home assistant, i vari oggettini che questi soggetti ci propongono di mettere in casa e che ci aiuterebbero con una serie di faccende quotidiane. Sono divertenti, ovviamente sono anche interessanti, ci sono progetti peraltro open source che ti permettono di farlo con un minimo di privacy in più, ma è chiaro che questi oggetti esistono prevalentemente per una ragione, per estrarre informazioni, e non nel senso che staranno a ascoltare esattamente cosa diciamo nel dettaglio. Sì, faranno anche quello e tenteranno di utilizzare quelle informazioni a livello semantico, a livello proprio di significato, ma vogliono sapere cosa facciamo in generale, vogliono conoscere tutti i device che compriamo, vogliono sapere quali sono le marche che preferiamo, e in questo modo vendere questi dati e ottenere delle previsioni per la pubblicità, chiaramente. Infatti uno dei modi per scoprire questa rapina è vedere quali sono i dati che richiedono per ogni device, e scoprire che in realtà non c'è tanto senso nel chiedere un'informazione per erogare un servizio di domotica in casa per chiudere le persiane automaticamente quando andiamo a letto. Si chiedono dei dati, dice: ma perché mi stai chiedendo questi dati? Qual è il senso? In cui della musica. Questa fase è ancora più complesso capire cosa stanno facendo. Il dato grezzo, l'accumulo generico e grezzo di è oro, perché oggi non riesco a estrarre da questi dati, potrei estrarlo domani. E questa è esattamente la logica con cui hanno operato i principali attori: Amazon, Google, Facebook, Apple lo sta facendo più di recente, Microsoft che lo sta facendo avendo acquisito LinkedIn, e non il social network. Non gliene può fregare di niente. Gli interessa raccogliere informazioni sulle pagare le informazioni e vendere quelle informazioni. Fammi fare un esempio scemo ma molto rappresentativo. Leggevo appunto ieri, ne parlavamo ieri, un produttore di televisione che si chiama Visio, o meglio lo diremo in italiano come Vizio perché è con la Z ed è molto divertente il nome, ha pubblicato di recente i propri profitti e di fatto guadagna il doppio dalla vendita di pubblicità, spazi e dati di profilazione che estrae dai propri televisori che non dalla vendita di televisori. Quindi se un soggetto, medio, grande, non so nemmeno l'entità di questo produttore di elettrodomestici, inizia a capire che il proprio business è cambiato e che è la vendita dei dati di profilazione e non più la vendita dell'oggetto, capisci che l'oggetto in sé diventa totalmente secondario a quel punto. Sì, è solo un modo per poter ottenere quell'altra cosa che ti serve molto di più. Chiaro, e il migliore degli oggetti ce l'abbiamo in mano tutti i giorni del telefono, chiaramente. Detto questo, la monetizzazione dei nostri dati prosegue e va molto al di là dell'estrazione dei nostri personali dati, cioè soggetti come Google, Facebook, Amazon, eccetera, hanno il potere, per esempio, di controllare i risultati che otteniamo dalle nostre ricerche e di favorire ciò che loro vogliono favorire. Ed questo è un potere enorme, anche su un mercato libero dovrebbe essere considerato problematico, e per ora non lo è considerato problematico. Hanno la capacità di fare una, chiamiamolo insider trading, nel senso che Google, Amazon, Facebook, Apple possono vedere chiaramente come si stanno sviluppando determinate tecnologie, quali prodotti stanno vendendo meglio e copiare, rubare qua e là, acquisire l'azienda giusta al momento opportuno e guidare il business dalle cose più grandi alle cose più piccole, perché di fatto anche quando ci danno l'illusione di poter aprire un negozio online o di fare gli imprenditori con pochi click, loro stanno continuamente estraendo valore e surplus monetario da tutto ciò che noi facciamo. Quindi partiamo già in una posizione di svantaggio rispetto a questi soggetti. Infine, hanno un enorme interesse a stimolare le nostre emozioni. Tutti questi soggetti hanno interesse a farci arrabbiare, farci appassionare, innamorare e via dicendo, perché sono le reazioni emotive a farci restare sulle piattaforme, a farci continuare ad utilizzare servizi che non sono peraltro necessariamente fondamentali per la nostra vita. Quindi è molto articolato, diciamo, tutto questo l'hanno scoperto effettivamente analizzando i dati, no? 20 anni fa hanno cominciato e hanno visto: oh, ma guarda, quando uno è arrabbiato resta più tempo sulla piattaforma, stai a vedere che forse lo faccio arrabbiare in qualche modo. Se ti ricordi 20-30 anni fa si parlava di analisi del comportamento delle persone di fronte a un sito web, no? C'erano studi che guardavano il movimento degli occhi su una pagina e tentavano di capire cosa attirava l'attenzione e cosa no. Quella era la punta dell'iceberg, perché poi abbiamo tirato fuori le scienze cognitive che di questo tipo del behaviorismo o comportamentalismo si occupano da decenni, e questi soggetti stanno mettendo a buon frutto questi studi per sfruttare al meglio le nostre risposte, la nostra attenzione, le nostre ansie e via dicendo. E di fatto poi, se ci pensiamo, abbiamo varie questioni aperte rispetto a individuo, identità ed autorappresentazione attraverso questi strumenti. Come se fosse necessario che Facebook o Google ci desse una sorta di benedizione che la nostra identità o la nostra autorappresentazione esiste. E non è così. Sono molto bravi a farci credere che se non è su Facebook o Instagram non esiste, e ovviamente noi siamo molto veloci a crederci. Ecco, noi facciamo molta fatica a comprendere quello che ci fanno con i dati per un motivo, perché noi non li abbiamo accumulati in questi 20 anni, quindi hanno su di noi un vantaggio enorme. Qualcosa riusciamo, ecco, a ipotizzare, stiamo facendo degli esempi, se ne possono fare anche altri, però non riusciremo mai realmente a capire quello che ci fanno, perché questo patrimonio informativo appunto è stato raccolto e poi rinchiuso in un recinto dove non c'è accesso per chi... Esatto, non solo rinchiuso in un recinto, ma pensa anche al fatto che parte del recinto è la capacità di capire cosa c'è dentro quei dati. Qualunque stato raccoglie enormi quantità di dati, ma non li sa ingegnerizzare, non sa cosa farci, non ha i soldi, gli elementi, le capacità tecniche per elaborare una tale complessità. Quindi loro stanno di fatto guidando ampiamente questo processo ed è chiaramente la posizione di privilegio da cui si muovono. Non possiamo non citare quindi quello che recentemente abbiamo saputo del neo sindaco Gualtieri, del sindaco della nostra città, che ha fatto un accordo con Google proprio per ottenere dal gigante di Mountain View un aiuto per la gestione del traffico a Roma. Un appalto che cuba una 60 milioni, ma non è questo il punto, cioè questo anche è un'informazione, certo, ma non è questo il punto. Il punto è che, come stavi dicendo, questi giganti hanno la capacità effettiva di incidere nel modo in cui le persone si comportano, quindi anche di aiutare appunto. Questa è un'incursione, se ci pensi, no? È una perfetta incursione, perché il punto è che loro sono in grado di fornire probabilmente un servizio utile al miglioramento del traffico a Roma. Non ho idea di quali siano i dettagli, però il potenziale c'è, è chiaro. E così come, se per questo Google credo che abbia ormai chiuso un accordo con la città di Toronto in Canada per costruire un intero quartiere da zero, di cui Google gestirà tutto, dall'infrastruttura elettrica a quella comunicativa, alle fogne e via dicendo. Questo per dire che certo, sì, ce l'hanno la capacità, hanno sia i soldi che la capacità di fare una cosa del genere, quindi nessuno lo sta negando. Il problema è è la posizione dominante con cui ci portano questi regali. Ed è pericoloso credere che siano regali, non saranno mai regali. Il payoff, la frase pubblicitaria di Google di recente è diventata "the more we learn, the closer we get", cioè più noi impariamo, più siamo vicini, più riusciamo a essere vicini, che è estremamente inquietante, nel senso che è come se ci stessero dicendo, e peraltro questa è un'abitudine di Google abbastanza antica, ci stanno dicendo chiaramente in faccia che più riescono ad avere informazioni su di noi, più loro riescono a essere vicini a noi e quindi a venderci prodotti e a circondarci di prodotti. È piuttosto inquietante l'idea che ci chiedano così chiaramente di concedergli di conoscerti fin dentro, in modo tale che ci possano dare l'antidoto a tutti i problemi del mondo, chiaramente. Sì, infatti il rischio è proprio questo, no? Che di fronte anche alle inefficienze degli stati, dei sistemi di welfare o semplicemente amministrativi, si vada poi a ricorrere a un aiuto, un supporto da parte di questi soggetti, che quindi poi entrano nella vita delle persone, entrano nella vita di uno Stato, quindi si fanno Stato in qualche modo, essi stessi si fanno Stato. Però noi non li conosciamo, non sappiamo neanche che volto hanno. Google è famosa per mantenere un segreto. Esattamente, ma poi sono imprese private. Sono imprese private, a monte di tutto. Sono cioè, nel senso che hanno un interesse commerciale, nascono per fare profitto, non nascono per fare il bene del mondo. Quindi già questo è un problema generale. In più hanno una capacità che nessuno Stato ha e che è estremamente invidiabile. Sono in grado di generare velocemente infrastrutture tecnologiche estremamente complesse, capaci di adattarsi alla fluidità del sociale, cioè in fondo sono tra i più bravi ad adattarsi a ciò che cambia nel reale, a prendere in considerazione tutte le diverse sfumature, a guadagnare da qualunque dibattito, contrapposizione o no, un conflitto sociale possa esserci là fuori. E purtroppo per loro è un algoritmo, è una funzione di un business plan, purtroppo è il dato di fatto, nessuno si illude del contrario, ma dobbiamo avere chiaro che quando parliamo di privacy, quando cediamo queste informazioni o quando ci concediamo di passare un pomeriggio a litigare su un social network con qualcuno, stiamo producendo contenuti per questo ciclo di elaborazione e di estrazione. e non so quanti di noi sarebbero, sono contenti di farlo nel momento in cui ci pensano. No, certo. Bene, direi che possiamo concederci allora un'altra pausa musicale e ritorniamo in diretta fra qualche minuto per l'ultima parte di Entropia Massima. Yep. Vi faccio ascoltare un brano dall'ultimo album di Caparezza. Guerrero camina. Un passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude free. Solo, non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13. Sento dire solo Apollo 13, non ho fremiti. Non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo. Non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion. Vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari. Chino sui libri e sui manuali. Miki, sei Lazzaro, dai, alzati. Cammina, guerrero, cammina. Scappa da uomo e cammina lungo un sentiero di sogni infranti. Guarda dritto, tira avanti. Chi ha paura perde tempo. Guarda, ci tendire a Gandhi. Arte mi devi guidare fra uno sforzo di natura di vegliare il mio percorso. Dalla borsa tiro fuori un grande corno per soffiare via il mio panico dal corpo. Col coraggio in tasca la mia vita passa camminando e basta. Lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina. Sette punto nove, Onda Rossa, siete Entropia Massima, stiamo parlando di dati, di capitalismo della sorveglianza. In quest'ultima parte di trasmissione vorremmo provare a comprendere un po' questo strano potere di cui stiamo parlando, un potere che possiamo definire così, potere strumentalizzante, no? Rubiamo le parole a Shoshana Zuboff, no? E quindi ci potrebbe... Facciamo da tutta la sera, quindi credo che sia... Sì. Le staranno fischiando le orecchie. Il punto è che se lo equipariamo al totalitarismo probabilmente non lo stiamo capendo bene, e quindi se non lo capiamo bene non riusciamo neanche a resistergli o a neutralizzarlo. Vediamo rapidamente un po' che cos'è il totalitarismo e in che cosa questo potere strumentalizzante si distingue dal totalitarismo. Il totalitarismo voleva ricostruire la specie umana attraverso il genocidio. attraverso la cosiddetta ingegneria dell'anima, cioè voleva entrare nel profondo delle persone e cambiare il modo in cui pensavano affinché esso potesse adeguarsi a un ideale. Lo ha elaborato Giovanni Gentile agli inizi del Novecento, si è diffuso con la dottrina del fascismo, che è stato scritto da Gentile e da Mussolini nel 32, nel 1932, e vedeva lo Stato come una unità organica che trascende la vita dei singoli, le differenze, le divisioni, si pone al di sopra di tutte le individualità e vuole entrare dentro le persone, vuole, diciamo, è un'operazione, diciamo così, che mira alla spiritualità, addirittura alla penetrazione nell'intimo di una persona. Leggiamo questo passo. Decisamente. Leggiamo questo passo qui. Il fascismo è totalitario e lo Stato fascista penetra la volontà, vuole disciplina e autorità che scenda addentro negli spiriti. Queste le parole di Gentile. Nello stesso anno Stalin disse a un incontro letterario, anche questo è un virgolettato: i nostri carri armati non servono se le anime di chi li deve condurre sono di argilla. Per questo dico che è più importante produrre anime che carri armati. Ecco, durante il Grande Terrore, quindi nel 1937-38, secondo uno storico dei Soviet, Robert Conquest, Stalin ordinò l'arresto di 7 milioni di persone, 1 milione furono fucilate, 2 milioni morirono nei campi di lavoro. Tra il 39 e il 41 centinaia di migliaia di polacchi furono internati nei campi di lavoro e decine di migliaia di comunisti polacchi furono uccisi. Queste sono le modalità del totalitarismo. E quindi capiamo che, diversamente dal potere strumentalizzante, il totalitarismo non può avere successo a distanza. Il potere strumentalizzante ha un successo a distanza, non arriva a noi, non ci tocca fisicamente. Invece il totalitarismo sì. Decisamente. Totalitarismo ha bisogno di esserti particolarmente vicino per poter controllare e anche per poter definire la tua privacy, il tuo privato e il tuo pubblico e via dicendo. In qualche modo le armi che utilizza sono le stesse, no? La punizione, la punizione in realtà no, la punizione è solo del totalitarismo, però l'isolamento, l'ansia, la paura, la persuasione sono le stesse pratiche, però vengono fatte in maniera diversa. Appunto, il totalitarismo entra fisicamente mentre quest'altro potere no. Il totalitarismo anche perché è più grosso. Sì, c'è stato un piccolo problema di rete, stavamo dicendo appunto il totalitarismo usa la violenza mentre il potere strumentalizzante usa i mezzi di modifica del comportamento. Ecco, vediamo se adesso si è ripresa la connessione. Sì e no. Come va? Adesso bene. Ecco, ancora un problema di rete. È così comprensivo per poter prendere in considerazione vai. Tutte le sfumature. Ok, è giusto, questi sono i poteri forti che stanno tentando di rallentare il nostro esatto. Discorso. Ma noi resisteremo. No, scherzi. Esatto, scherzi a parte, è proprio questa. Torniamo su prima dicevo fluidità, e una cosa che mi intriga molto è che il capitalismo della sorveglianza è estremamente elastico, è estremamente fluido e può assumere molte forme diverse, dalla forma super democratica a quella estremamente repressiva. Esempio concreto: Google può lavorare negli Stati Uniti, in Cina e collaborare con qualunque regime e decidere di adattare le sue policy, continuando a dirci che stanno facendo del loro meglio per promuovere democrazia e buoni valori in giro per il mondo. E in effetti buoni collaboratori in questo momento di Google, perché non hanno quell'elasticità e ne hanno molto bisogno. Scusami, mi sono allontanato un po' dal discorso sul potere, ma era per sostenere più ancora con più forza come queste nuove di estrazione capitalista non hanno grandi difficoltà con la complessità. Non gli interessa imporre un principio, non gli interessa imporre un ideale unico, ma semmai una visione del mondo più articolata e più estesa. Certo, poi sono fondamentalmente interessati a quello che facciamo, no? Quindi c'è un elemento di sorveglianza, effettivamente, no? Però quello che facciamo rientra in un progetto economico, cioè da questo guadagnano e quindi accumulano capitali. Esattamente. Il che gli permette di sostenere ampiamente il diritto di parola o il diritto di accesso alle informazioni come principi generali per i dati senza avere problemi legali. Allora, proviamo a fare a parlare un po' di questo comportamentismo di cui comunque abbiamo già accennato nelle fasi precedenti della trasmissione, no? E citiamo Skinner, che parla di comportamentismo radicale. Cioè, Skinner era un ricercatore, uno studioso di Harvard, che studiò per tutta la vita il comportamento animale con l'intento anche di modificarlo. Quindi lui lavorava con piccioni e leve, piccioni e grano, piccioni su piastre, topi in labirinti, questo genere di cose. Si mise in testa di estendere questo laboratorio al mondo intero e per 70 anni cercò di convincere che lui poteva effettivamente migliorare il comportamento sociale sulla base di questi studi che lui aveva fatto e che voleva riproporre nella società, quindi verso gli umani, ma soprattutto verso le società che gli umani formano. E cosa succede? Succede che nel 1948 vengono pubblicati due libri, uno proprio di Skinner, Wold and You, e uno di George Orwell, 1984. E il primo viene completamente, non lo conosce nessuno, cioè viene completamente ignorato, non ha nessun seguito. Mentre invece quello di George Orwell insomma, fu un capolavoro totale che ancora oggi viene citato, perché entrambe queste elaborazioni, sia Wold and You di Skinner che 1984 di Orwell, prendono in considerazione delle logiche di potere. E quindi vediamo un po' di fare questo parallelo, no? Per capire quali sono le differenze. Orwell ci parla del potere totalitario, era partito dagli incubi del XX secolo, quindi da quelli ha elaborato cosa sarebbe potuto succedere di lì a poco. Ci diamo anche qui un passo di 1984 di Orwell. Non ci accontentiamo dell'esperienza negativa e meno che mai di una sottomissione avvilente. Quindi quello che veniva a fare il Grande Fratello era prendere l'anima di Winston Smith, il protagonista del libro, e alla fine, insomma, non ci sentiamo di spoilerare perché è talmente famoso che diciamo così, sicuramente non spoileriamo granché. Alla fine in effetti ci riescono, viene riprogrammata con successo l'anima. Mentre invece Wold and You nasce con degli intenti completamente diversi. Innanzitutto non è un monito come 1984, ma anzi si pone come antidoto al totalitarismo di quegli anni. Si usciva dalla guerra, quindi chiaramente si pensava alla ricostruzione, si pensava a come evitare quelle tragedie, però lo fa in un modo tutto suo, in un modo particolare, che, ripeto, fu totalmente ignorato, no? Dai ricercatori dell'epoca, da quelli che decisamente dai suoi coevi. E quindi lui era convinto che non era una questione di democrazia che ci dà un'illusione di libertà, non era una questione di libero mercato che, insomma, mi fa ingenerare una competitività tra i popoli, non era neanche convinto che potesse essere il nuovo umanesimo dell'esistenzialismo la ricetta giusta, o men che meno la religione. Quella che era la sua cura, la cura di Skinner, era una tecnica. Pensate un po' che idea aveva nel 1948, una tecnica che prometteva un futuro di uguaglianza sociale e armonia priva di passioni. Questa tecnica è quella di cui stiamo parlando oggi. Soprattutto priva di passioni. Priva di passioni è anche un elemento molto interessante, no? Quindi questa freddezza, i dati che vengono raccolti e elaborati in maniera precisa, scientifica, tecnica. E le sue parole oggi forse cominciamo a capirle, no? Ci dice anche che con questa tecnica sarebbe stato possibile risolvere una serie di problematiche o sviluppare una serie di tecnologie, di novità come l'energia nucleare, l'inquinamento, il controllo della popolazione, l'urbanizzazione, l'uguaglianza economica, la criminalità, l'educazione, la sanità, lo sviluppo dell'individuo, lo svago. Quindi tutto quello che riguardava le società umane, sia nelle componenti più intime, quelle dello svago, sia in quelle più progressiste, che andavano verso le nuove tecnologie, sia in quelle proprio di gestione ordinaria dello Stato, come abbiamo detto poco fa. E quindi oggi capiamo questo claim di Google, no? Che dicevamo, the more we learn, the closer we get, lo capiamo bene. Cosa era necessario fare però per poter arrivare a questo? Ci diceva Skinner nel 48. È necessario eliminare la libertà, eliminare l'autonomia, eliminare la privacy, eliminare l'autodeterminazione. E quindi ci stava parlando di quello che noi oggi stiamo vedendo e che lui non avrebbe mai visto essendo morto prima. Solo che c'è un piccolo... Assolutamente, e peraltro con una trasparenza... nel senso che sta... Perdono, ho interrotto, c'era un tecnico? Vai, sì, c'era un piccolo problema tecnico, ma ripetilo. Diciamo che eliminare l'età unica è esattamente ciò che facciamo quotidianamente quando firmiamo questi contratti, se ci pensiamo. Limitiamo la nostra nel momento in cui limitiamo come possiamo utilizzare i nostri contenuti o cediamo i nostri contenuti personali, foto, testi, pensieri ad altre piattaforme. Limitiamo la nostra autonomia nel momento in cui compriamo un prodotto di una certa marca o di un'altra, i prodotti solo in quella linea. Limitiamo la nostra privacy. Io penso che sia tutta e ovviamente anche l'autodeterminazione, per quanto possiamo essere consapevoli, quando l'ennesima pubblicità ci suggerisce qualcosa che solletica la nostra fantasia, ansia o immaginazione, finiremo per andare a cercare quel prodotto e comprarlo. Quindi di fatto Google ci sta facendo accettare questa cosa, solo che lo sta facendo soggetto un capitalista, e ci cosa il futuro per me. La sensazione è questa. Sì, diciamo che una delle cose che portava avanti questa strana utopia di Skinner, visionaria, veramente visionaria, è difficile immaginare come abbia potuto pensarla in quegli anni, era appunto di cedere la libertà in favore della conoscenza. Questo è evidentemente un punto di vista, insomma, filosofico, con cui chi ci si è confrontato l'ha subito bollato come un'idea balorda e priva di senso. Però se ci pensiamo, in realtà è quello che ci stanno chiedendo, no? Oggi, cioè la conoscenza dei dati è ciò che serve per poter migliorare il modo in cui viviamo. Fare previsioni, esatto. È vero, per fare migliori previsioni. Solo c'è un piccolo problema. È un piccolo problema che Skinner non aveva previsto, cioè che nella sua ingenuità, cioè che questa conoscenza ha dei proprietari. E non siamo noi, sono proprietari ricchi e potenti, e quindi la libertà la perdiamo tutti, ma la conoscenza ce l'hanno solo loro. Sì, esattamente. E peraltro, perché quando anche immaginassimo un mondo in cui fosse pensato solo per le migliori intenzioni, resta comunque problematico il fatto che personale, individuale, di capire, di contenere, di visualizzare questa mole pazzesca di informazioni, no? E c'è sempre un soggetto esterno che sta osservando i comportamenti, sta decidendo in che direzione andare, che sia il più neutro, che sia un'intelligenza artificiale o che sia un governo autoritario, come ce ne sono al mondo che operano in questo senso, sono tutti scenari in cui purtroppo l'utopia di Skinner non si manifesta, ma si manifesta il suo doppio negativo. Esatto, quindi una sorta di piccolo grande incubo. Assolutamente. Detto ciò, è chiaro che la battaglia sulla conoscenza resta la cosa primaria, perdonami, volevo. Perfetto. Il problema definitivamente, e il problema va reinquadrato in questa ampia di un capitalismo che estrae dati e usa dati, e su quello dobbiamo continuare a fare attenzione e continuare a portare avanti la lotta. Sì, l'unica cosa che ovviamente questo genere di riflessioni si porta sempre con sé è che cosa possiamo fare, no? E qui la risposta è non lo so. Perché non siamo... ce ne sono tante di risposte, secondo me. Nel senso, se dobbiamo rispondere alla domanda generale, come contrastiamo una cosa gigantesca come ciò che queste aziende stanno facendo a livello mondiale o la finanza globale, è chiaro che non abbiamo una risposta da formulare in radio in 3 minuti, o altrimenti avremmo già risolto molti problemi. Ma ci sono molti fronti. Ci sono molte organizzazioni che si occupano dei diritti legati all'utilizzo dei dati. La consapevolezza intorno a come questi dati vengono utilizzati sta crescendo, e quindi più riusciamo a inquadrare il problema in questi termini e meno passiamo a preoccupare, meglio, secondo me. Sì, l'ultima parte non si è sentita, ma l'idea è questa. Cioè... L'ennesimo problema da lì. Sì, diciamo, la riflessione che probabilmente stavi facendo, provo a reinterpretarla io, è che siamo un po' all'interno di un grande laboratorio globale del capitale, e la prima cosa da fare è intanto capirci qualcosa di più, perché questo è il primo passo. Quando quando dovevamo tirar fuori le leggi del capitalismo industriale, e quindi insomma tutto quello che è stato il Marx e il marxismo e tutto ciò che in quegli anni veniva fuori, eravamo in una situazione molto simile a quella di adesso. Cioè non pensiamo che tutto era assolutamente chiaro, che la lotta di classe fosse qualcosa di facile da comprendere. Non si comprendeva, ci si è messo un po' per comprenderla, forse qualcosa del genere stiamo facendo oggi. Intanto cerchiamo di capirci qualcosa, poi ci organizzeremo di conseguenza. Va bene, e siamo arrivati un po' verso la fine. Purtroppo ci sono stati un po' di problemi di rete che non ci hanno permesso di andare proprio al massimo come volevamo con il dialogo. Speriamo che comunque la puntata vi sia piaciuta. A questo punto la dobbiamo rifare con una migliore connessione a internet, direi. Quella che abbiamo qua, insomma, diciamo, non è stata brillantissima stasera. Entropia massima finisce qui. Ci risentiamo lunedì prossimo. E continuate a sentire ovviamente i programmi del lunedì. Dopo di noi andrà in onda Elettrodo con Disorder. E ovviamente, in chiusura di puntata, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare chi lo ha fatto dal carcere.